giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sanitari verso lo sciopero, Trieste e Gorizia penalizzate, dicono, dalla ripartizione delle risorse aggiuntive. I costi della riabilitazione contro le dipendenze per l'Agenas e quelli regionali sono tra i più alti d'Italia. Oltre 14.000 infortuni sul lavoro e 22 decessi in regione lo scorso anno. A Udine, l'ANMIL ricorda Lorenzo Peretti. Cori razzisti al Friuli e Curva Nord deserta per 2 giornate. La società pensa a ricollocare i tifosi in altri settori. Minacce di morte, tentata estorsione a Trieste ai danni di un imprenditore edile che denuncia, arrestati in 2. Nel segno della poesia, l'evento per Gorizia, capitale europea della cultura 2025, con Nova Gorizia, presentato oggi da Marco Goldin. 12:31 minuti, buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Sanitari di Asugi e Burlo sul piede di guerra e pronti a uno sciopero dopo i dati sulla ripartizione delle risorse aggiuntive regionali che secondo i sindacati penalizzano il personale di Trieste e Gorizia. Si parla di 300 euro in meno in busta paga di infermieri e amministrativi e sempre più probabile fuga dei lavoratori nel privato. 300 euro netti in meno di stipendio ogni mese, sarà più magra la busta paga dei dipendenti delle aziende sanitarie di Asugi e Ospedale Pediatrico Burlo di Trieste, più ricca invece quella dei dipendenti del comparto di Udine, Pordenone e Crodi Aviano, cittadini di serie A e di serie B. La denuncia arriva dai sindacati CGIL, CISL e FIALS che minacciano azioni di protesta concrete dal presidio in prefettura allo sciopero generale a determinare tagli sullo stipendio, la redistribuzione delle risorse aggiuntive, soldi che coprono maggiorazioni e incentivi che quest'anno non è stata fatta su contrattazione regionale. Vediamo i numeri. Se nel 2023 Asugi ha avuto 4.700.000 euro, quest'anno avrà 1.900.000 euro. Il Burlo, ancora peggio, passa da 569.000 euro a 188. A guadagnarci invece gli altri, un esempio su tutti, ASUFC, che quest'anno avrà 700.000 euro in più. Risultato, dicono i sindacati, la fuga verso il privato non solo dei pazienti ma anche dei dipendenti. Se notti, festivi, ore in più non vengono incentivate, nessuno più le farà. Alla conferenza stampa erano presenti le opposizioni. Roberto Cosolini, PD, ha annunciato la richiesta di audizione urgente dell'assessore Riccardi in Commissione Sanità. Noi siamo con Francesca Fratianni della CGIL Funzione Pubblica. Lei dice ai suoi colleghi: non fate ore aggiuntive. Invito con forza i miei colleghi ad alzare la testa e non dare disponibilità a fare i turni aggiuntivi, ai richiami in servizio, perché non ci sono i fondi, non sono stati stanziati e non verranno pagati. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. I costi per l'assistenza a persone con dipendenze come alcol e droghe. Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni con le tariffe più alte, lo dice una ricerca dell'Agenas. Un trattamento terapeutico riabilitativo può costare 128 euro, che diventano 165 se ci sono comorbilità psichiatriche. Sentiamo. Quanto costa al servizio sanitario assistere e curare qualcuno a domicilio o in struttura nelle varie parti d'Italia? Una domanda a cui fino ad oggi nessuno poteva dare una risposta, perché ogni regione fa da sé. Per la prima volta l'AGENAS, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ha realizzato un'analisi comparativa. Le tariffe riconosciute dal Friuli Venezia Giulia sono nella parte centrale o alta della forchetta a seconda dell'ambito analizzato. Spicca rispetto ad altre regioni la spesa per l'assistenza a chi ha problemi di dipendenze, per esempio alcol, droghe o gioco d'azzardo. Le tariffe riconosciute in questo ambito sono praticamente le più alte d'Italia. Un trattamento terapeutico riabilitativo costa 128 euro, che sale a 165 se ci sono comorbilità psichiatriche. Il Friuli Venezia Giulia remunera relativamente bene anche chi si occupa di persone con disturbi mentali in struttura. La tariffa è di 190 euro al giorno, la Liguria riconosce meno della metà, ad esempio. L'assistenza alle persone non autosufficienti in residenza costa 150 euro, tra i valori più alti riconosciuti. L'assistenza ovunque più costosa è quella legata all'hospice, cioè alle persone ricoverate nella fase terminale della vita. Il Friuli Venezia Giulia riconosce 290 euro, si va in Italia dai 400 di Bolzano ai 147 del Molise. Tutte queste cifre sono a carico del pubblico e non comportano in alcun caso una spesa per il cittadino, va chiarito. Dal rapporto Agenas, insomma, emergono grandi differenze territoriali per servizi analoghi tra loro. In molti casi è stato peraltro impossibile per l'agenzia recuperare il dato ricercato per via della difficoltà di reperire gli atti normativi delle singole regioni. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. curva nord chiusa al Friuli nelle due prossime partite casalinghe. Il rammarico dei tifosi bianconeri per la misura della giustizia sportiva, mentre la società cerca il modo di collocare gli abbonati in altri settori dello stadio. L'Udinese Calcio, come conferma il direttore amministrativo Alberto Rigotto, sta considerando l'ipotesi di poter ricollocare gli abbonati della Curva Nord in altri settori nelle due sfide interne contro il Monza e il Cagliari. Ma sarà un sabato surreale allo stadio Friuli di Udine vedere la curva vuota a causa della decisione della prima sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, che ha accolto in parte il reclamo dell'Udinese Calcio contro la sanzione dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse e, in parziale riforma della decisione, ha rideterminato la sanzione nell'obbligo di disputare due gare con il settore della Curva Nord, già diffidata per la partita contro il Napoli, priva di spettatori. Il club friulano era stato sanzionato in relazione alla gara con il Milan dello scorso 20 gennaio. Il rapporto degli emissari della Procura FIGC presenti allo stadio era stato piuttosto pesante in sede di descrizione dell'ambiente durante i momenti caldi della partita. Secondo quelle carte, i colpevoli erano più dei 5 individuati, circa 50, ma sempre tutti in curva. Per questo, alla fine, nel dispositivo, la Corte d'Appello ha deciso di accogliere in parte il reclame. Giuseppe Marcon, presidente Udinese Club. Significa molto perché stiamo passando un momento molto delicato e sappiamo benissimo che il sostegno, il calore principale viene dalla curva. Sono due partite fondamentali, Monza e Cagliari, col Cagliari ancora di più perché, se vogliamo chiamarlo scontro diretto, questo è, e quindi senza l'apporto dei ragazzi della Nord, che ripeto si sono sempre comportati in maniera esemplare, e quindi viene a mancare un apporto sicuramente importantissimo. Ora il club attende le motivazioni per valutare un ulteriore ricorso contro la sentenza al collegio di garanzia del CONI. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Udine ha ricordato il giovanissimo Lorenzo Parelli, lo studente morto in fabbrica, e l'ANMIL ripercorre nell'occasione le cifre di infortuni sul lavoro in calo, ma morti in aumento in regione. Ecco il servizio. C'erano i rappresentanti delle istituzioni, ma c'erano soprattutto i ragazzi delle scuole superiori di Udine all'inaugurazione in Parco Moretti della stele e di una panchina in memoria di Lorenzo Parelli, il 18enne morto nel suo ultimo giorno di percorso di alternanza scuola-lavoro il 21 gennaio 2022. Gesto simbolico sul valore della vita e sull'averne cura, destinato in primis proprio agli studenti, ha sottolineato la madre di Lorenzo, Maria Elena. Stele e panchina sono voluti dall'Associazione Udinese del l'ANMIL, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro. Oltre 14.000 gli infortuni nel 2023 in regione. Sono in lieve diminuzione, ma non lo sono quelli fatali. I decessi in azienda o in itinere l'anno scorso sono stati 22 in Friuli Venezia Giulia, 12 in più dell'anno precedente, un aumento in controtendenza con quanto accade in Italia e nel Nord-Est. Dalla morte di Lorenzo è nata la Carta di Lorenzo, ma anche un accordo tra INAIL, associazione di categoria, e regione per la sensibilizzazione nelle scuole, iniziativa che potrebbe presto valicare confini regionali. Dopo il voto all'unanimità in commissione, ieri sera è terminato a Roma il percorso nelle commissioni di merito e il 26 febbraio approderà alla Camera la proposta dell'obbligo di insegnamento della sicurezza sui luoghi di lavoro in tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche aggiungendo, come dice l'onorevole Walter Rizzetto, presidente della commissione lavoro alla Camera, l'istituto della testimonianza, ovvero persone che hanno subito infortuni non mortali, ma che testimonieranno nelle scuole cosa vuol dire lavorare in sicurezza. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca: un imprenditore edile, titolare di una ditta con 20 dipendenti e con numerosi cantieri aperti a Trieste, ha denunciato ai carabinieri di essere stato avvicinato da un uomo che, presentandosi come emissario di una banda criminale, gli ha chiesto la consegna di 50.000 euro. La vittima inoltre aveva iniziato a ricevere sul proprio telefono pesanti messaggi minatori con foto dei propri cari e anche l'immagine di una bomba Molotov, messaggi arrivati anche da utenze telefoniche straniere. Il nucleo investigativo dei carabinieri, coordinato dalla Procura di Trieste, ha avviato una serie di intercettazioni invitando l'imprenditore a temporeggiare sulla consegna del denaro per valutare l'entità reale della minaccia. Ad un tentativo di ridurre la cifra sono seguite ulteriori minacce di morte, poi l'accordo è stato fissato su 23.000 euro da pagare però immediatamente. È stato così organizzato uno scambio in una piazza centrale della città, a cui la vittima si è recata con un plico voluminoso e ben visibile ai militari che avevano presidiato tutte le possibili vie di fuga. Il sedicente intermediario, ricevuto il plico, è stato immediatamente bloccato sul suo telefono. I messaggi che aveva scambiato con un complice, pure lui localizzato ed arrestato insieme all'intermediario. I due sono stati portati in carcere. Le indagini proseguono per identificare eventuali altri complici. Servizio in borghese della Polizia Locale di Trieste: nei giorni scorsi nel giardino pubblico De Tommasini per la segnalazione di un viavai di persone nei servizi pubblici. L'attenzione degli agenti si è focalizzata su un uomo che stazionava su una panchina e che appariva guardingo e in palese attesa di qualcuno. Poco dopo, un altro uomo che prima di accedere al bagno faceva un cenno verso quello seduto, e i due si sono appartati nel locale di servizio dell'area verde, frequentata anche da molti bambini, e venivano sorpresi a compiere atti sessuali. I due sono stati denunciati per atti osceni, con l'aggravante di aver agito in luogo frequentato da minori. E adesso parliamo di bonus e misure per la conciliazione famiglia-lavoro. Ne abbiamo parlato oggi a Buongiorno Regione. Invertire la rotta della denatalità grazie a bonus e servizi di comunità si può fare? La risposta è sì, e lo dimostra un piccolo comune di 2.000 abitanti della provincia autonoma di Trento, Calliano, che grazie a politiche amiche della famiglia è riuscito ad attrarre molte giovani coppie con bambini. Ma quali sono i bonus garantiti dallo Stato? Risponde Ilaria Dal Corso, referente del numero unico famiglia del servizio Sì con te, lo sportello per la conciliazione famiglia-lavoro della regione Friuli Venezia Giulia. L'assegno unico universale è sostanzialmente un assegno mensile che viene corrisposto e dalla nascita fino ai 18 o 21 anni di vita del figlio in alcuni casi. Si chiede una sola volta e eventualmente si aggiorna se poi nel nucleo arrivano altri figli. Il bonus nido invece è un rimborso che viene concesso previa presentazione all'INPS di una fattura già pagata per la frequenza di un asilo nido. Quali invece i bonus erogati dalla nostra regione? Se rimaniamo nella fascia 0-3, quindi prima infanzia, abbiamo l'abbattimento retta regionale, che è una misura ovviamente cumulabile con quella nazionale. Stiamo parlando di 250 euro al mese per famiglie con un figlio a carico e di 450 euro al mese per famiglie con due o più figli a carico. Serve un ISEE minore uguale di 50.000 euro, comunque insomma un ISEE molto alto. Serve residenza in FVG da almeno 12 mesi continuativi. Ci spostiamo verso la fascia adesso invece 0-18. In questo momento in regione abbiamo due misure attive che sono entrambe legate a carta famiglia. Serve avere un ISEE minore o uguale di 35.000 euro e poi serve di nuovo la residenza in regione da almeno 24 mesi. Quindi, richiesta carta famiglia, la famiglia che cosa fa? Può accedere a dote famiglia e previdenza complementare. Dote è una misura molto interessante perché va a rimborsare tutte quelle spese che sono state sostenute per attività o servizi fruiti dai minori, e previdenza si chiede ogni anno e serve a che cosa? A rimborsare versamenti fatti all'interno di un piano di previdenza complementare aperto a nome del minore. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. C'è chi non fa figli per scelta e chi per condizione. Ad aiutarli c'è la procreazione medicalmente assistita. Per fare chiarezza sulle possibilità offerte dalla scienza oggi, anche all'interno del servizio sanitario pubblico, e per capire che cosa prevede la legge italiana, è in programma stasera alle 18 un incontro a Trieste nella sala Piccola Fenice. Interverranno il professor Ricci, primario di ginecologia del Burlo Garofalo, e la professoressa Cacace, giurista. L'evento è organizzato dal nucleo etico del Burlo Garofalo. E adesso parliamo di turismo. La stagione passata e quella che verrà, la GIT di Gradi ha fatto il punto sul turismo balneare dell'Isola d'Oro con le novità per l'estate prossima. La spiaggia portata via dalle ultime mareggiate tornerà al suo posto, assicura il presidente della Grado Impianti Turistici Roberto Marini in conferenza stampa alla presenza dell'assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini, comune e operatori economici. All'apertura della stagione il 1° maggio nell'Arenile gestito dalla GIT, i turisti avranno a disposizione lo stesso numero di ombrelloni e lettini dello scorso anno. Il ripascimento sarà in due fasi, spiega Marini. A marzo saranno riportati i primi 25.000 metri cubi di sabbia, 40.000 invece a marzo dell'anno prossimo, con anche l'innalzamento del sedime e l'allargamento della linea di costa per un totale di oltre 1.400.000 euro di spesa. Non sono però nelle stesse condizioni le altre spiagge, osserva il commissario Augusto Viola, per il quale serve un intervento complessivo per ripartire tutti insieme. La spiaggia GIT quest'anno cambia anche volto, con una riorganizzazione, un restyling che al gestore costerà circa 2 milioni di euro, nuovi reparti alla portata di tutti, attrezzature, bagni, chioschi, ristoranti, ingresso principale rinnovati e due campi di padel. Quanto alle terme, operativo da marzo il primo piano, in autunno cominceranno i lavori al secondo, mentre grazie al milione stanziato dalla regione si penserà a riqualificare il retrospiaggia. Si guarda intanto alla nuova stagione, forti dei numeri di quella passata che, ricorda Bini, dati alla mano, per Grado ha fatto segnare oltre il 9% in più di presenze rispetto alla stagione già record del 2022, un dato in controtendenza rispetto alle altre spiagge, segno che l'offerta di qualità, come in questo caso, può fare la differenza, osserva Bini, insieme a un lavoro di squadra dal quale non si può prescindere, richiama. Effetto anche delle prenotazioni online, su cui GIT ha puntato molto nel 2023, cresciute di quasi il 16%, un sistema che ha richiamato utenze da Friuli Venezia Giulia, Nord Italia, Slovenia, oltre che dai mercati tradizionali come Austria e Germania, che stanno già confermando le prenotazioni. Intanto, con una campagna mirata, si guarda anche ai flussi che arriveranno dalle nuove rotte aperte da Ryanair all'aeroporto regionale. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. I 37.000 metri quadrati della Fiera di Pordenone, tutti occupati da Samu Expo, il salone internazionale della metalmeccanica, oltre 500 visitatori tra buyers e studenti della regione. Samu Expo apre le porte al futuro e all'innovazione industriale. La Fiera di Pordenone naviga verso il record di presenze di visitatori, oltre 16.000 già registrati, attratti dalla Biennale delle tecnologie per la lavorazione dei metalli e della plastica, subfornitura e industria 4.0. Una realtà esposta da 557 aziende con quasi 800 marchi rappresentati e una partecipazione estera di produttori che tocca il 15%. Tre giorni dedicati ai buyers provenienti dal nord-est e dal resto d'Italia, ma anche da Bosnia, Croazia, Albania, Svezia e Polonia. Una vetrina per aziende medio-piccole, comprese quelle del cluster della metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia, il Comet. Un'ottantina le aziende riunite in questo grappolo di industria regionale. Per favorire l'avvicinamento dei giovani e azzerare le distanze tra scuola e mondo del lavoro, 500 studenti di licei e istituti tecnici superiori della regione hanno potuto conoscere da vicino il settore metalmeccanico. Saverio Maisto, direttore Comet. Grazie agli investimenti fatti, sempre più specifici, sempre più specializzati, grazie anche alle competenze dei giovani che veniamo a assumere, le aziende rimangono competitive e in modo particolare la componentistica meccanica, siamo appunto all'interno del padiglione della Subtech, quindi la subfornitura meccanica, viene riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, che acquista componenti meccanici nella nostra regione, nel nostro territorio. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alle 12:49 minuti uno sguardo al meteo, il cielo è variabile, coperto sulla regione, le temperature registrate alle 11. A Trieste 6,5 gradi, Udine e Gorizia stessa temperatura, 6,5 gradi, a Pordenone 4 gradi, a Tolmezzo 7, sul Piancavallo 6, a Forni di Sopra 4,5 gradi, a Tarvisio 3, sul Monte Lussari 5 gradi, sullo Zoncolan 4, a Grado 6,5 gradi, a Lignano 5,5 gradi. Queste invece le previsioni per oggi, pomeriggio in serata, cielo da variabile a nuvoloso per nubi ad alta quota. In nottata rasserenamento con la possibilità di qualche nebbia sulla bassa pianura. Domani cielo variabile, sempre per il passaggio di nubi ad alta quota. A Gorizia, illustrato questa mattina da Marco Goldin, storico dell'arte e curatore di fama internazionale, il progetto ideato per la città in vista di Go 2025. Manca un anno, poco più. Go 2025 si aprirà ufficialmente l'8 febbraio del 2025. 8 febbraio, data simbolica che unisce le vite di due grandi poeti. Era un 8 febbraio quando nacque Giuseppe Ungaretti, era un 8 febbraio quando morì Franz Prescheren. Apertura ufficiale, dicevamo, perché il cammino verso quella data è punteggiato da tanti eventi e quello di oggi qui a Gorizia è certamente uno dei principali. In teoria è la presentazione della mostra Ungaretti, poeta e soldato, il Carso e l'anima del mondo, poesia, pittura, storia. In pratica è il vero evento di lancio della capitale europea della cultura, ruolo condiviso da Gorizia e Nova Gorizia. Un evento che è stato voluto aperto a tutti e la risposta al comunale Giuseppe Verdi non è mancata. Il poeta soldato dunque fa da testimonial, o almeno il primo, di Go 2025 e sulle sue orme, più di un secolo dopo, fra San Martino del Carso e i dirupi del San Michele, altri artisti stanno già ritraendo quei luoghi sulle loro tele. Ed è facile immaginare quanti dipinti in realtà evocheranno le trincee di oggi, un migliaio di chilometri più a nord-est, dove la vita di uomini del nostro tempo è sospesa come d'autunno sugli alberi le foglie. Poesia di guerra di un uomo che proprio lì, in quelle trincee, fra il 15 e il 16, scoprì quanto fosse attaccato alla vita, e quindi poesie di vita e di pace daranno il via al cammino della capitale della cultura. La mostra sarà inaugurata in ottobre e resterà aperta fino a maggio del 2025 fra il Museo di Santa Chiara a Gorizia e la Galleria d'Arte Contemporanea di Monfalcone. A curarla sarà Marco Goldin, storico dell'arte, curatore di grandi mostre internazionali e anche della presentazione odierna. Al Verdi poco fa la proiezione di un suggestivo video di 18 minuti su Ungaretti e sui luoghi della sua guerra. In sala anche il compositore Remo Anzovino, che ha anticipato alcune delle musiche composte per il prossimo appuntamento, lo spettacolo teatrale che in aprile, proprio al Verdi di Gorizia, avrà la sua prima. Gorizia, Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste in scena da stasera fino a domenica lo spettacolo Il Malloppo, black comedy del drammaturgo inglese Joe Orton. Sul palco ci saranno Marina Massieroni, Gianfelice Imparato e Valerio Santoro in una PS che si prende gioco delle istituzioni della borghesia al Teatro Orazio Bobbio alle 20.30, domenica alle 16.30. Alcune conferenze e altri appuntamenti, proiezione del film La città che cura della regista triestina Erika Rossi, presente all'evento, sull'esperienza delle microaree, un percorso terapeutico innovativo per il benessere psicofisico e sociale delle persone che si aiutano in modo solidale e reciproco, nella sala incontro della parrocchia di San Rocco a Gorizia alle 18. Teatro del Novecento, avanguardia e tradizione, la conversazione sulla storia del teatro con Mario Brandolini alle 18 nell'auditorium dell'Istituto Superiore in Audi Marconi a Staranzano. Nuova lezione sul Decameron di Boccaccio, curata da Gianfranco Scialino alle 18 nella sede Hauser di Pasian di Prato. A Trieste, quarto incontro dei cenacoli dell'Associazione Museo del Caffè all'Hotel Savoia Excelsior alle 17.30. Dominare l'energia del fuoco per servire la magnifica bevanda con Roberto Nocera, direttore della San Marco di Gradisca d'Isonzo, che produce macchine per caffè e attrezzature del settore. La Società Alpina Friulana, la più antica e numerosa sezione del CAI regionale, compie 150 anni a Udine alle 17.30 alla Fondazione Friuli. Verranno presentate le iniziative per celebrare questa ricorrenza, dalle attività del comitato scientifico alla rassegna dei film protagonisti della montagna, quest'anno dedicata all'inclusione, ai diritti e all'accessibilità negli sport. Abbiamo chiesto allo storico Umberto Sello com'è cambiato in questi 150 anni il rapporto con la montagna. L'approccio dei pionieri, diciamo dell'epoca dei Marinelli, era scientifica e non alpinistica. Dopo i secondi 50 anni c'è stata l'apertura all'alpinismo, cioè all'escursionismo, e chiaramente siamo anche, dobbiamo pensare che siamo nel ventennio, no? E quindi c'è tutto questo movimento dei campeggi, delle escursioni, no? dell'inquadramento. Oggi siamo tornati a un alpinismo libero, c'è un movimento gestito dal CAI importante, ma poi dopo ci sono i cani sciolti, no? Che vanno col cambiamento anche di tutti i materiali che vengono usati oggi, si può raggiungere delle cose, diciamo, inimmaginabili all'origine. Purtroppo bisogna dire che c'è questa corsa alla conquista della montagna anche da parte del turista di pianura, e quindi ogni tanto c'è anche qualche intervento, chiamiamolo pseudo pubblico, che è discutibile, se non altro, no? Con l'accessibilità di strade e tutto, che ha cambiato un po' il modo di andare in montagna. Altri appuntamenti alla Libreria Tarantola di Udine: la presentazione del laboratorio di scrittura creativa Short Story, lo sguardo dei maestri, a cura di Mauro Daltin, narratore e direttore editoriale di Bottega Errante Edizioni, alle 18. Visita guidata per il finissage della mostra Un missile costa mille cuori dell'artista Carlo Fritsch alla Galleria Rettori Trivio di Trieste alle 18. Apre oggi e inaugura sabato alle 17.30 la mostra degli artisti muggesani al primo piano di Eppinger Caffè in via Dante. La mostra, la 46esima edizione, sarà visitabile fino al 29 febbraio. E la personale di Antonio Colmari sarà inaugurata alle 17 a Gorizia, al centro abitativo Sinigaglia di via Faidutti. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Mauro Cumine, Caterina Cabrelli, in redazione Cristina Polselli, da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.